Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11.08, Carmelo Lauricelli in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, grazie per essere in nostra compagnia, allora andiamo a sentire i titoli del nostro sommario. Se la controlli, la proteggi, parliamo di vista. Respiro, rilassamento e concentrazione ti aiutano ad avere una marcia in più. Giovani, le pillole e la paura dell'amore. Oggi una puntata dedicata alla vista in occasione della giornata mondiale che si celebrerà il prossimo giovedì 8 ottobre. Radio 24, come sapete, è la radio ufficiale degli ipovedenti e non vedenti e abbiamo pensato di anticiparvi i temi che caratterizzeranno questo importante appuntamento, mettendovi a disposizione gli esperti che saranno protagonisti giovedì prossimo di un'importante tavola rotonda che si terrà alla sala del Mappamondo a Palazzo Montecitorio. Un'occasione di confronto per sottolineare, lo facciamo spesso e lo facciamo anche oggi, l'importanza della prevenzione e dei controlli, ma un'occasione anche per fare il punto sulle terapie oggi a disposizione e sugli orientamenti della ricerca. Devo dire che sono molto contenta di avere il privilegio di giocare in anticipo, perché questo mi permette di dare a tutti voi la possibilità, voi che ascoltate naturalmente il programma, di organizzarvi per aderire alle tante iniziative che l'IAPB, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, ha organizzato su tutto il territorio nazionale. Un numero verde a cui prenotare una visita nei centri oftalmologici che hanno aderito a questa importante iniziativa. Io ve lo do, il numero verde adesso in diretta, ma naturalmente potete telefonare anche al nostro centralino per averlo, lo ritrovate anche sul nostro sito e vi rimando come sempre al sito dell'IAPB. Il numero da segnare per prenotare la visita è 800 98 98 89, però potete anche come sempre rivolgervi al numero verde della IAPB che è 800 06 85 06 per avere informazioni medico-oculistiche. L'orario è come sempre dalle 10 alle 13. Avrete anche modo di incontrare la prevenzione che scende in piazza per essere sempre più vicini a tutti noi, ai cittadini. Trovate l'elenco delle iniziative sul sito, sulla pagina di Essere Benessere di Radio 24, ma anche su quello come sempre della IAPB. Oggi in linea con noi abbiamo il professor Alfredo Reibaldi, che è direttore della clinica oculistica dell'Università di Catania ed è direttore scientifico del Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti. Professor Reibaldi, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie. Abbiamo anche in linea da Roma il professor Filippo Cruciani, oculista, ricercatore al Dipartimento di Oftalmologia all'Università La Sapienza di Roma. Professore, bentornato e buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Vi ho dato tanti numeri verdi e devo darvi anche il nostro. Se non lo sapete già, come per intervenire in diretta, 824 0024, i nostri esperti sono a vostra disposizione. Potete, come sempre, scriverci un messaggio al 349 238 6666. Professor Reibaldi, la giornata mondiale di quest'anno è dedicata alle donne e questa scelta può essere letta e giustificata in due modi diversi. Iniziamo ad affrontare il primo, perché la disabilità visiva colpisce in maggior misura il sesso femminile rispetto a quello maschile, generalmente a partire dai 50 anni. Perché, professore, la vista delle donne è più a rischio? Beh, intanto credo che, come sanno tutti, voi siete di più e quindi il numero ovviamente incide in maniera notevole. Le donne, per vostra fortuna, vivete di più. Certo. E quindi anche questo incide, perché, come probabilmente vedremo nel prosieguo della trasmissione, le malattie, soprattutto le malattie vascolari, incidono dopo un certo età, oltre 65-70 anni, e probabilmente un altro dei motivi per cui le donne hanno questo problema è il fatto che dopo la menopausa cade lo scudo, la barriera ormonale che normalmente protegge la donna dagli accidenti vascolari, almeno nella gran parte dei casi, e quindi probabilmente queste cause sono il motivo per cui ci sono più donne che soffrono di occhi che gli uomini dopo una certa età. Ma c'è un secondo motivo: la giornata è dedicata alla donna perché è la donna che si fa promotrice di messaggi e anche gesti di prevenzione, un ruolo importantissimo a livello familiare e sociale. Professor Cruciani, le donne sono per voi quindi delle preziose alleate, perché insegnare e aiutare le mamme a comprendere l'importanza della prevenzione e dei controlli è uno degli investimenti, direi, più efficaci e importanti per ridurre la disabilità visiva. Sì, certamente. Noi come IAPB, in tutte le campagne che abbiamo fatto, abbiamo dato molto importanza a questo aspetto e abbiamo cercato sempre di mettere al primo posto, in quella che chiamiamo prevenzione primaria, cioè il tentativo di creare una coscienza sanitaria, una sensibilità nella popolazione verso i problemi della vista, abbiamo cercato di mettere sempre al primo posto le donne e soprattutto le mamme. Le posso dire che in una campagna che si dal titolo Apri gli occhi, che ha interessato tutta l'Italia e così ha raggiunto circa più di 70.000 bambini e quindi penso all'incirca 70.000 famiglie, noi abbiamo avuto una risposta incredibile proprio da parte delle mamme ed è stata una campagna che ci ha dato molta soddisfazione. Un'altra campagna che si chiama Vediamoci Chiaro, dove abbiamo potuto testare quello che è il livello magari di attenzione proprio delle mamme nei confronti dei figli che vanno a scuola, abbiamo avuto delle risposte molto soddisfacenti. Abbiamo visto che per esempio le mamme si interessano molto nella prevenzione della vista nei bambini e in Italia, le posso dare questo dato, circa l'80% dei bambini che vengono portati a visita in età prescolare e scolare vengono portati a visita proprio per iniziativa della mamma. Allora, se voi siete d'accordo, oggi ripercorriamo le tappe della prevenzione e dei controlli, ma vogliamo parlare anche di quelle terapie che hanno cambiato radicalmente il decorso di alcune malattie oculari, permettendo quindi al paziente di mantenere e preservare la vista. Quindi invito gli amici a casa, se soffrite di malattie oculari e volete essere aggiornati sulle opzioni terapeutiche più innovative e conoscere anche quelle a cui sta lavorando la ricerca, chiamateci 800 24 0024. Professor Raibaldi, ho bisogno di lei, vorrei che lei ci aiutasse a così capire, senza entrare nel dettaglio perché lo faremo nel corso della trasmissione, quali sono le malattie oculari che in questi anni hanno visto migliorare prognosi e decorso grazie a nuovi farmaci e direi anche ad interventi più mirati. Beh, dunque, innanzitutto credo, come un po' tutta la medicina, tutte le patologie oculari, man mano che si va avanti negli anni, per fortuna ci sono sempre nuovi trattamenti, nuove possibilità di cura e quindi in linea di massima c'è stato un miglioramento generale. Ci sono alcune che si sono giovate più di altre, in particolare per esempio mi viene a mente la maculopatia correlata all'età, cioè una malattia dell'anziano che ha avuto un sviluppo veramente micidiale in questo periodo. La retinopatia del prematuro, una malattia di cui sono affetti i bambini che nascono prematuramente, ma se vogliamo anche la cataratta stessa, e quindi il glaucoma. Chi ne ha più ne metta. Professor Cruciani, direi che col professor Raibaldi ci occuperemo di patologie, con lei invece stresseremo il concetto di prevenzione. Infatti vogliamo invitare gli amici da casa a sottoporsi a controlli anche in assenza di sintomi, perché molte malattie agli esordi sono asintomatiche e soprattutto vogliamo convincerli a non indugiare in presenza di alcune anomalie visive che potrebbero non essere nulla sicuramente, ma che richiedono comunque un consulto specialistico per verificarne la natura. Allora, professor Cruciani, rapidamente vogliamo prendendo come filo rosso le fasce di età individuare eventuali campanelli d'allarme. Inizierei dai bambini. Cioè, il bambino chiaramente non accusa niente, è il genitore che nota qualcosa che non va. Io segnalerei così le cose più importanti, certo, perché poi i sintomi sono tanti, ecco, alcuni flash, uno strabismo anche occasionale che si manifesta in momenti particolari, una posizione anomala del capo oppure il fatto che si avvicina agli oggetti che guarda. Questo nel bambino, in una persona magari più giovane, in uno studente, una facile stancabilità nello studio, il fatto che strizza gli occhi e gli occhi che sembrano sempre rossi. Sì, affaticati. Affaticati. Oppure in un adulto segnalerei magari dei sintomi importanti sono la comparsa di flash improvvisi in certi momenti particolari, oppure la presenza di macchie scure che compaiono all'improvviso nel campo visivo, o anche non vanno trascurate la comparsa di aloni intorno a delle sorgenti luminose. In un anziano la comparsa di una deformazione mentre osserva un oggetto, una visione annebbiata e direi anche un fatto che può sembrare positivo, il fatto che si ritrova a poter leggere da vicino, cosa che magari qualche anno prima non riusciva. Quindi se la presbiopia migliora? Sì, questo vuol dire bisogna, che non è sempre un fatto positivo. Non è sempre un fatto positivo, insomma non è un regalo, gli anni non ci hanno ripensato. Professor Reibaldi, l'ha accennato a giustificazione del fatto che noi donne siamo più soggette alle malattie oculari, specie dopo i 50 anni. Lei l'ha accennato e ha parlato di alcune patologie, soprattutto noi sappiamo che ci sono dei soggetti, io allargherei anche agli uomini, che devono sottoporsi a controlli visivi perché hanno malattie croniche che in qualche modo possono interferire sulla salute della vista. Vogliamo ricordarle? Beh, per esempio il patognomonico è il diabete. Il diabete purtroppo è una malattia estremamente frequente, si calcola che circa il 2% della popolazione possa essere affetta dopo una certa età, e è ormai risaputissimo che più il diabete è scompensato, e quindi è importantissimo mantenere un controllo strettissimo della situazione metabolica, che non è solo poi la glicemia, ma è soprattutto l'emoglobina glicata ed anche la pressione arteriosa, perché si è visto che se io ho un diabete con una pressione, un paziente diabetico con una pressione arteriosa che va oltre i 140, ma anche a volte 140, i danni che possono verificarsi all'interno dell'organismo, in particolare per quello che ci riguarda dell'occhio, sono importanti. Quindi il diabete certamente, perché poi a parte il compenso, che questo dipende da noi, l'altro fattore di rischio è l'epoca di insorgenza. È ormai statisticamente dimostrato che se io ho il diabete da oltre 20 anni, purtroppo ho più del 50% di possibilità di essere affetto da una retinopatia diabetica, che può essere più o meno lieve, ma quindi va come prima di tutto studiata, svelata, e nel caso ci sia possibilità di trattamento va trattata. E l'altro patologia che mi viene così subito a mente è per esempio il glaucoma. Il glaucoma gli autori anglosassoni lo definiscono come il ladro nella notte, perché è una delle pochissime malattie agli occhi che di fatto per lungo tempo non dà assolutamente nessun sintomo. E quindi se io non mi faccio visitare, chiaramente non avrò la possibilità di scoprire. E siccome il danno si estrinseca essenzialmente a livello del nervo ottico, quindi di fibre nervose che purtroppo non possono più essere ricreate, l'opera poi dell'oculista arriva al massimo a fermare la patologia che sta evolvendo, ma non si potrà mai tornare indietro. Quindi a maggior ragione, più io mi faccio vedere precocemente, più se non ho niente tutti contenti, ma nel caso fossi affetto dal glaucoma sono in grado di trattarlo precocemente e quindi di avere i minor danni possibili. La prevenzione in molti casi, l'abbiamo ripetuto tante volte, è fondamentale, direi è cura, è terapia in alcuni casi. 824 0024, il nostro numero è a vostra disposizione, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Respiro, rilassamento, concentrazione, tre parole che sono una costante della pratica yoga e che oggi diventano protagoniste del nostro spazio dedicato al benessere. Oggi vogliamo visualizzarle e soprattutto trasformarle in occasioni per stare bene con noi stessi e quindi con gli altri. Ci aiuta Lisetta Landoni, presidente dell'Accademia Kriya Yoga di Milano. Buongiorno e bentornata. Buongiorno a tutti, grazie. Lisetta, io ho detto respiro, rilassamento, concentrazione. concentrazione, ma è giusta la sequenza, è corretta? Direi proprio di sì, perché allora conoscere il proprio respiro non è una cosa a cui la nostra cultura ci ha abituato, e conoscere il proprio respiro è un'occasione poi per sfruttarlo al meglio, quindi attraverso ad esempio tutta una serie di tecniche di respirazione, educarsi a respirare di più e meglio, quindi sia quantitativamente sia qualitativamente. È un modo anche per tenere a bada tutte le proprie tensioni, emozioni, eccetera, quindi ridurre lo stress, quindi ottenere quello stato di rilassamento cui lei accennava prima, e tutto questo poi sfocia naturalmente in una condizione di maggior concentrazione. Lisetta, per quanto riguarda il respiro, tante volte ne abbiamo parlato e lei ci ha aiutato a respirare, soprattutto con il suo esercizio ci ha fatto toccare con mano quanto spesso i nostri il respiro sia bloccato. Proviamo a scioglierlo un attimo? Ecco, diciamo, questo respiro può essere comunque, ognuno di noi si trova in questo momento in qualunque posizione, seduto, sdraiato, anche in macchina, va benissimo. Noi dobbiamo semplicemente portare la nostra attenzione alle narici e osservare il respiro che viene e va, che si forma e si disfa, spontaneamente però. Quindi noi cerchiamo di non influenzarlo, di non imporgli dei tempi, quali la nostra mente suggerirebbe, ecco adesso faccio un inspiro pazzesco così sto benissimo. No, no, no, semplicemente osserviamo quello che l'intelligenza del nostro corpo ci propone, il respiro che viene e il respiro che va attraverso le narici. Se poi riusciamo anche a tenere gli occhi chiusi, la percezione di quello che avviene dentro di noi è molto più evidente. Lisetta, mi sento già un'altra. Provavo intanto, io gli occhi li avevo chiusi, ma le tre parole che abbiamo analizzato con il suo aiuto e soprattutto direi fatto entrare proprio nella pratica quotidiana sono anche i punti di forza di una disciplina che mi ha sempre affascinato, l'apnea. E io l'ho scoperto leggendo il libro Il respiro dell'apnea che lei ha appena pubblicato con Umberto Pellizzari, campione sì. del mondo. Lei si è cercata proprio un campione, sì, non un campioncino. 16 volte campione del mondo, quindi 16 specialità, e infatti è proprio un grande campione, oltre che un grande uomo. Elisetta, quindi lo yoga come disciplina che entra anche e aiuta gli apneisti. Sì, c'è proprio questo aspetto dello yoga che si chiama pranayama, questo protocollo di respirazione che ho messo a punto con Apnea Academy è risultato un po' un asso vincente per affrontare al meglio la preparazione degli istruttori di apnea. Quindi con Umberto Pellizzari e Anna Seddone abbiamo poi concentrato tutte queste nostre esperienze e abbiamo scritto insieme questo libro, Il respiro nell'apnea. Che presenterete a Milano e si trova già in tutte le librerie. Soprattutto tornerà perché voi sarete a disposizione, direi, anche dei curiosi, oltre che di chi pratica già yoga, al sì. festival che si terrà proprio nel prossimo weekend a Milano. Sì. Ecco, sabato pomeriggio alle 5 a Milano Yoga Festival ci sarà questo incontro e la gente evidentemente curiosa di saperne di più sarà, credo, ampiamente accontentata. Quindi dalla teoria alla pratica, Lisetta, sì. una domanda: se serve a chi fa apnea e ha un campione come Umberto, lo yoga può essere anche preparatorio per altre discipline sportive, quindi per chi va in palestra, chi corre, chi gioca a golf, ecco, chi va a tennis? Sì, mi piace questa domanda. Grazie, perché è proprio quello che volevo dire. Il pranayama serve proprio a tutto, è una disciplina che fa parte dello yoga, è parte integrante dello yoga, che si può declinare in mille modi a seconda delle nostre necessità. Sì. Lisetta, venga anche un po' a fare un po' di yoga ai conduttori. Su. Volentieri, ma quando mi volete io arrivo, poi mi sentite simpatici. Non solo i campioni, anche va i conduttori. Bene, un abbraccio, grazie a Lisetta Landoni. Grazie infinite, buongiorno, grazie Nicoletta. Pronto soccorso. Torniamo a parlare della vista. Vi ricordo che giovedì 8 ottobre si celebra la giornata mondiale voluta dall'OMS, promossa dal nostro paese dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB, e dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. In linea con noi abbiamo il professor Raibaldi, il professor Cruciani, già squilla il nostro centralino all'824 0024, e noi andiamo a Roma. Ci aspetta Jean, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconti. Allora, io ho 47 anni, un paio di anni fa ho cominciato ad avere il campo visivo che si deteriorava, ho preso dei beta bloccanti e negli ultimi 6 mesi si è degradato tantissimo, ho fatto un Doppler per verificare se c'erano problemi alle arterie, ho fatto anche una risonanza magnetica per vedere se c'era qualche cosa di particolare, ma non c'è niente, però la vista, diciamo il campo visivo si deteriora sensibilmente e molto rapidamente. C'è qualche probabilità di uscirne? Professor Raibaldi, grazie Gian, stia in linea con noi. Professor Raibaldi. Sì, io provo così a interpretare. Certo. Intanto il beta bloccante che il nostro amico diceva erano per via generale o per via locale? Gian? Erano delle gocce che metto mattina. Ah, ecco lì, appunto. Quindi evidentemente i medici si sono orientati su un glaucoma, però nel caso del signore è un glaucoma particolare che si chiama glaucoma normale o addirittura a tensione bassa, perché, giusto per andare velocissimi, normalmente il glaucoma ha come sua manifestazione precipua la pressione dell'occhio alta. Sì, però, questo voi dite dopo i 40 anni di farci controllare la pressione oculare. Però ci sono alcuni casi, e l'età anche del nostro amico corrisponde, in cui il problema preponderante non è la pressione dell'occhio alta, o meglio, quella che non sembra una pressione dell'occhio alta, per cui innanzitutto, per essere sicuri, andrebbe fatto non solo la misurazione della pressione, ma anche la curva tonometrica, cioè misurare come si fa per la pressione arteriosa più volte nella giornata e addirittura qualche volta anche durante la notte. Ma se anche questo dovesse risultare una pressione normale, purtroppo ci sono alcuni individui che hanno questa particolarità. Se la pressione arteriosa, in questo caso, soprattutto la diastolica, è molto bassa, e l'occhio è estremamente un organo protetto per la pressione arteriosa alta, mentre scarsamente protetto per una pressione arteriosa bassa. Per cui che cosa succede? Che il sangue, che ovviamente deve andare a irrorare tutte le fibre nervose, tutte le strutture oculari, ha più difficoltà ad entrare all'interno dell'occhio. Avendo più difficoltà ad entrare all'interno dell'occhio, di fatto è come se il nervo ottico avesse un insulto da una pressione alta e quindi continua a deteriorarsi. Per cui in questo caso intanto bisogna avere dei dati certi sulla effettiva plafond della pressione. Sì. Una volta che si è assodato questo, fare un holter pressorio, credo che il nostro amico l'avesse fatto, sì, soprattutto per avere indicazioni dai nostri colleghi internisti che non ci siano delle marcatissime ipotensioni notturne, perché sono quelle, e molto spesso i nostri internisti colleghi non ci badano, perché loro in effetti il problema è la pressione alta non la pressione bassa. In questo caso è la pressione bassa, e se anche tutto questo non dovesse bastare, addirittura aumentare i colliri per abbassare, perché evidentemente la pressione 13, sto dicendo adesso un numero a caso, che normalmente dovrebbe essere una pressione assolutamente normale, evidentemente per i nervi ottici del nostro amico è una pressione che non va bene, non va bene. Si deve ulteriormente abbassare. Professor Raibaldi, lei ci ha spiegato in modo chiarissimo un problema molto complicato, per cui le faccio i miei complimenti. Rimanga con noi, adesso andiamo a sentire i mercati, naturalmente è a nostra disposizione anche il professor Cruciani. Torneremo sul glaucoma, ma parleremo seguendo un po' l'anatomia dell'occhio e incrociandola con l'età anagrafica del nostro paziente. Ci occuperemo delle varie malattie oculari, sempre sul fronte tra prevenzione e terapia. Se voi chiamate portando i vostri dubbi, le vostre domande, come sempre ci date davvero una mano per entrare meglio nel problema, quindi vi rinnovo l'invito a chiamare l'800 24 00 24. Vi porto con me a sentire i mercati e poi torniamo di nuovo insieme. Essere e benessere. Siamo tornati insieme, in linea con noi il professor Raibaldi e il professor Cruciani, ci occupiamo della nostra vista. Professor Raibaldi, iniziamo dai bambini, iniziamo dai prematuri. C'è una malattia vascolare della retina che si manifesta nei nati prematuramente, si presenta in genere in tutti e due gli occhi. Si chiama ROP, una sigla che sta ad indicare la retinopatia del prematuro, ed è una delle cause che possono compromettere seriamente la vista dei nostri bambini. Si può diagnosticare, si può trattare, professor Raibaldi? Beh, assolutamente sì. Intanto c'è da fare una premessa, che i nostri neonatologi diventano sempre più bravi. Sì. Non è infrequente vedere bambini che nascono 600, 550 grammi, 24, 23 settimane. Purtroppo tutti questi sono dei bambini che sono a rischio fortemente di numerosissime malattie, ma per noi che siamo oculisti è quasi certo che faranno una retinopatia del prematuro. La retinopatia del prematuro di fatto che cos'è? Noi la retina, la nostra retina, che è la parte più nobile dell'occhio, è sviluppata appieno al nono mese di gravidanza. Chiaramente se io nasco a 5 mesi, a 6 mesi, ma anche a 7 mesi, la vascolarizzazione della retina non è completa. Quindi chiaramente è quasi matematico che ci possa essere una, sia pure inizialissima, retinopatia del prematuro, cioè una zona di retina vascolarizzata e una zona di retina ischemica. La zona di retina ischemica è quella a rischio. Per cui è fondamentale, ed è ormai per fortuna nella nostra abitudine di tutte le unità operative di terapia intensiva neonatale, di avere un oculista dedicato, perché voi considerate che i bambini che bisogna visitare sono bambini che, appunto, dicevamo prima, 700 grammi, 1000 grammi, 1100 grammi, e spessissimo, anzi sempre, sono nell'incubatrice. Certo. Quindi vanno visitati non in condizioni nel nostro studio, con la calma, mamma, certo. Nell'incubatrice, con tutte le difficoltà, ed è fondamentale, ci sono dei protocolli, esiste in Italia il gruppo italiano di studio della retinopatia del prematuro, che è molto attivo da questo punto di vista, per cui ci sono dei protocolli, tutti i bambini che nascono prematuri devono avere la loro visita a massimo entro la terza, quarta settimana di vita, perché in questa maniera noi possiamo monitorare la situazione. Normalmente o non c'è una retinopatia del prematuro o è in uno stadio molto lieve, perché ci sono vari stadi, però in un 15% dei casi di bambini prematuri purtroppo invece la malattia comincia a diventare grave, e in quel caso, quando arriva ad uno stadio di non ritorno, è fondamentale, è previsto e stabilito da tutti i protocolli internazionali, che l'oculista che lo vede deve trattare questi bambini con una bruciatura, fra virgolette, sì, con un laser, la zona periferica della retina, proprio per evitare che si stimoli ulteriormente il processo ad andare avanti. In una percentuale, per fortuna, limitatissima di casi, questa cosa non basta. E allora il passo successivo è fare un trattamento chirurgico, che per fortuna con le strumentazioni che abbiamo adesso è meno invasivo di quanto, per esempio, ho iniziato io, ahimè, un bel po' di anni fa. È un'attrezzatura molto meno, diciamo, invasiva, per cui si fa anche della chirurgia, sempre allo scopo di evitare che il vitreo, che è la parte che sta davanti alla retina, che attaccandosi alla retina poi si tiri e quindi stacchi la retina, il distacco di retina diventerebbe veramente un elemento destruente per l'occhio di questi bambini, in modo da cercare di bloccare questa evoluzione, e si riesce in una buona percentuale di casi. Quindi fondamentale, mi raccomando, la prevenzione, cioè ogni bambino che sta nell'incubatrice deve essere visitato dall'oculista a cadenza giusta, ma non basta. Perché a volte un bambino che, per esempio, sta meglio, però questi bambini, come sappiamo tutti, hanno la possibilità di avere delle infezioni, molto, anche per una semplice otite, può far precipitare una situazione, stiamo parlando sempre a livello di retina, che prima era buona. Quindi questi bambini vanno controllati anche quando escono dall'incubatrice, fino a quando l'oculista non si rende conto che i vasi sono arrivati, perfetto, all'estrema periferia della retina. È chiaro, quindi prevenzione soprattutto e controlli mirati e ben cadenzati. Professor Cruciani, con lei vorrei salire d'età e iniziare ad occuparmi invece di un'altra zona dell'occhio. Inizierei ad occuparmi della cornea. Quali sono gli segnali che possono farci capire che questa struttura, che possiamo definire un po' la lente, no, del nostro occhio, professor Cruciani, corretto? Si sta ammalando o sta soffrendo? Guardi, la cornea è una struttura del tutto particolare perché è una struttura senza vasi, perché deve essere trasparente chiaramente, e poi perché è fortemente innervata. Questo vuol dire che qualsiasi insulto arrivi alla cornea crea una sintomatologia dolorosa eclatante. Quindi diciamo, ecco, un insulto della cornea, una patologia della cornea si traduce sempre in una sintomatologia soggettiva, ma spesso anche oggettiva, evidentissima. Questa sua perché abbiamo dolore, bruciore, sì, cioè, di solito sì, qualcosa sia dolore, ce ne accorgiamo, insomma, di corpo estraneo e via dicendo. E, ma oggi una patologia molto frequente, che si ha però più che altro nell'anziano e soprattutto nelle donne, dato che oggi parliamo di donne, è il cosiddetto occhio secco, cioè la cornea deve essere continuamente lubrificata dalle lacrime e per vari motivi, siano essi ambientali, siano interni, spesso si ha una riduzione di queste delle lacrime oppure un'alterazione della loro qualità e si hanno questi disturbi, e questo gli ascoltatori lo sanno. No, è un disturbo molto frequente. Ma un'altra particolarità, ecco, che va segnalata della cornea è l'uso delle lenti a contatto. Le lenti a contatto sono un bene preziosissimo e chi è miope lo sa perfettamente, però è un bene che va conservato nel tempo. Purtroppo l'utilizzo, soprattutto nei più giovani, delle lenti a contatto non sempre risponde a quei criteri. È vero, professor Cruciani, perché quando prendiamo confidenza trascuriamo magari un po' di l'igiene e tutte le attenzioni che sono dovute. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi insieme al professor Reibaldi vorrei affrontare una malattia della cornea, una malattia che si verifica quando la cornea si assottiglia, si deforma, assumendo proprio una caratteristica forma cono, quindi la superficie oculare si indebolisce e inizia a cedere. Parleremo infatti di keratocono, colpisce all'anno 50 persone ogni 100.000, generalmente fra i 20 e i 30 anni. È una malattia con origine genetica e ha un'evoluzione soggettiva. Ne parleremo con il professor Reibaldi per capire se ci sono novità per quanto riguarda la diagnosi e la terapia. Quindi vi aspetto 824 0024. Essere e benessere. Eccoci, professor Reibaldi, fino a keratocono, fino a qualche tempo fa la cura era affidata ad occhiali speciali o lenti a contatto, quindi proprio nei casi più seri, quando proprio la deformazione della cornea era significativa, si passava poi al trapianto. Però negli ultimi anni sono stati fatti degli importanti passi avanti per, direi, la stabilizzazione e anche la cura di questa malattia. È proprio così. Intanto volevo sottolineare una cosa che lei ha detto, che l'evoluzione è sempre estremamente soggettiva, cioè ci sono persone che inizia questo problema in giovane età, come anche lei sottolineava, e rapidamente purtroppo la situazione va a evolvere, poi vediamo le nostre possibilità terapeutiche, ma ci sono altre persone che hanno una situazione che nel tempo rimane assolutamente stabile. Le do un aneddoto così, giusto per drammatizzare un pochino. Io, mio padre era un oculista anche lui, e lui seguiva un monaco, un frate cappuccino, noi siamo dalla provincia di Foggia. Bene, lui l'ha tenuto in cura oltre 30 anni ed è rimasto sempre stabile, poi l'ho preso in cura io fino a quando poi non sono venuto più a Catania, insomma per circa 40-42 anni quel cappuccino, probabilmente anche perché forse aveva una certa raccomandazione, non ha avuto nessuna evoluzione. Adesso, a parte gli scherzi, in effetti ogni tanto capita questo, però purtroppo nella maggior parte dei casi invece capita frequentemente nei nostri studi, arriva il papà, la mamma con un ragazzo o una ragazza belli, prestanti. Professore, io mi sono accorto che da un po' di tempo non vedo bene. Ma no, mi sembra di vedere un po' le cose un po' non perfettamente a fuoco. In alcuni casi, per fortuna abbastanza rari, in effetti la cornea, che come diceva benissimo Cruciani e lei, è la parte più esterna dell'occhio, la nostra primo impatto con l'esterno, non presenta più un aspetto suo caratteristico, la curvatura, la trasparenza, ma comincia a sfiancarsi. In questo caso, intanto è fondamentale fare degli esami molto più approfonditi di quanto potevamo fare prima. Prima avevamo soltanto degli semplici strumenti che misuravano la curvatura e basta, adesso ci sono dei topografi che studiano esattamente punto per punto la curvatura della cornea, sia quella anteriore che quella posteriore, c'è la microscopia confocale che è un altro strumento che ci fa praticamente come un esame istologico della cornea in vivo. Una volta che si è di fronte ad una situazione appunto di iniziale cheratocono, le possibilità sono, intanto credo come sia giusto fare sempre, conviene un mese, un paio di mesi così per vedere se quest'occhio abbia o meno la tendenza ad evolvere. Nel caso dovesse evolvere, per fortuna adesso la situazione nei casi iniziali si interviene facendo un trattamento estremamente conservativo, cioè di fatto qual è il concetto? Che il cheratocono è la conseguenza di un indebolimento, fra virgolette, della parte più dello stroma della cornea, cioè la parte più spessa. E in questo caso si fa un trattamento con un strumento che appunto si instilla una goccia, si chiama di riboflavina, poi si irradia questa zona di cornea con dei raggi ultravioletti e questa strumentazione dovrebbe avere la capacità di indurire, fra virgolette, il parenchima corneale ed evitare che vada ad evolvere. E in una buona percentuale di casi questo trattamento ci consente di bloccare la situazione. Quindi rinforza un po' la cornea. Rinforza la parte più interna quella che si va quella che si sfianca. Certo. Abbiamo Irma D'Ancona, buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno a lei. Io comunque ho avuto tutte le risposte. Bene. Perché mio figlio è stato operato purtroppo già da un occhio. Sì. E per cui e adesso siamo in attesa perché il nostro oculista dice che si evolve poi e facilmente anche dall'altro occhio. Sì, quindi lei ha avuto tutte le risposte dal professor Raibaldi, quindi sì, immagino sì, relative al cheratocono. Sì, certo. E in effetti avevo sentito. Bene, noi rispondiamo ancora prima di sapere. Quanto siamo avanti? Irma, allora io la ringrazio per essere intervenuta, auguri. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Professor Cruciani, abbiamo anticipato già una patologia con il professor Raibaldi, sollecitati da una domanda, da un intervento del nostro ascoltatore quando abbiamo parlato di glaucoma. Faccio un appello ai quarantenni a misurare la pressione oculare, già che a lei devo affidare la prevenzione. Sia certo. Convincente. No, quella è una cosa fondamentale, lo diceva prima il professor Raibaldi, ecco, il glaucoma è una malattia terribile perché il ladro della vista, ecco, perché uno non ha nessun disturbo, assolutamente nessun disturbo, si accorge della malattia quando è allo stadio terminale, quando il suo campo visivo si è enormemente ridotto e lui se ne accorge perché va a sbattere con gli ostacoli e non li vede praticamente. Certo. Ecco, che cosa si può fare per prevenire? E fare un controllo oculistico, non solo la pressione, noi ci battiamo perché venga fatto proprio un check-up oculistico periodicamente e questo oggi è facilmente realizzabile perché a 40 anni quasi tutti noi dobbiamo andare dall'oculista, no? Per la presbiopia, cominciamo certo. A avere problemi da vicino, c'è per esempio la legge 626 che impone che tutti i videoterminalisti devono essere sottoposti a visita oculistica ogni 2 anni, ecco, l'importante è che ci sia da parte dell'interessato questa spinta a fare la visita oculistica e che dall'altra parte ci siano le strutture che la possano realizzare appieno. Allora, adesso lasciatemi salutare il prossimo ospite, il dottor Enrico Maria Surace dell'Istituto Teleton di Genetica e Medicina, TIGEM di Napoli. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Dottore, dedichiamo proprio un paio di minuti, gli ultimi della nostra trasmissione, alla ricerca. Parliamo dell'utilizzo della terapia genica per la correzione delle malattie della retina, perché in questo campo avete riportato risultati sorprendenti, impensabili sino a poco tempo fa. L'anno scorso, infatti, per la prima volta al mondo, grazie alla collaborazione tra il Children Hospital di Philadelphia, l'Istituto Teleton di Genetica e Medicina TIGEM di Napoli e il Dipartimento di Oftalmologia della Seconda Università Università degli Studi di Napoli, li ho citati tutti perché è stato un lavoro d'equipe ed è giusto sottolineare che la ricerca funziona anche grazie proprio agli equip. È stato eseguito proprio con successo un intervento di terapia genica sull'uomo per curare la maurosi congenita di Leber, che è una malattia genetica che colpisce la retina e provoca cecità o grave danneggiamento della vista già nei primi mesi di vita, vero? Sì, dice benissimo, è proprio grazie a questa collaborazione che ha dato vita a questa sperimentazione che è iniziata nel 2007 per curare questa malattia che si chiama, come ha detto, amaurosi congenita di Leber, colpisce i bambini, ha un esordio nell'infanzia e ha una progressione che porta sfortunatamente alla completa cecità. La collaborazione del nostro istituto con SUN e l'Università Americana ha fatto sì che i primi pazienti italiani, tra l'altro, sì, tre pazienti italiani, attraverso un sistema che abbiamo sviluppato in laboratorio insieme a tutti gli altri gruppi, permette di reinserire attraverso un sistema il gene corretto che causa la malattia. In altre parole, noi siamo riusciti a iniettare nella retina di questi pazienti una copia corretta del gene in maniera tale da poter sostituire quella non più funzionante all'interno delle cellule danneggiate dei pazienti. E la cosa sorprendente è che abbiamo già dopo le prime settimane dopo il trattamento abbiamo osservato prima di tutto che il trattamento è stato molto ben tollerato. Questo è fondamentale, certo. Da un punto di vista invece dell'efficacia abbiamo potuto osservare che questi pazienti che avevano solo la possibilità di percepire un movimento della mano prima dell'intervento, dopo l'operazione, dopo qualche settimana, hanno cominciato a leggere alcune righe della classica tavola con la quale si fa l'esame dell'acuità visiva e abbiamo anche avuto modo di misurare in maniera molto obiettiva il fatto che la retina rispondesse in maniera diversa rispetto a quanto faceva prima. Rispondeva bene in maniera estremamente promettente. Tenete conto che queste malattie sono assolutamente incurabili e questo risultato, la cui entità e la sua valutazione totale dovrà essere fatta nel giro di anni, perché la sperimentazione certo. È ancora in corso. Però, ma solo questo segno positivo nei confronti di quello che è un'inesorabile progressione della malattia è, dal nostro punto di vista, chiaramente un segno estremamente importante promettente. E promettente. Io voglio proprio deciso di chiudere con questa bella notizia, questo spazio dedicato alla ricerca che va sempre avanti, con un invito a sostenere la ricerca e mi raccomando, continuate a sostenerla, ma continuate a fare prevenzione. Professor Reibaldi, professor Cruciani, dottor Surace, vi devo salutare al volo. Grazie davvero per averci aiutato a comprendere l'importanza dei controlli della prevenzione, ma anche a farci capire che le terapie ci sono, vanno avanti proprio anche grazie alla ricerca. Buona giornata a voi, grazie per essere intervenuti. Grazie. Allora, e noi ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto, buonissima giornata. Radio 24. La passione si sente.